peso insopportabile, la paura di perderti in un futuro statico, nell'abitudine d'amare, vorrei ucciderti, poterti rendere immortale senza doverti mai né annoiare né invecchiare. Sono qui. Insopportabile, la paura di opprimerti in un futuro stanco e in una storia sempre quella, vorrei ucciderti, poterti rendere immortale senza doverti mai né annoiare né detestare. Sono qui. Non so illuderti.